Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera abbiamo due libri che tentano di parlare di un'economia buona, di un'economia giusta, di un'economia positiva. Sono due libri, direi, ottimistici, che cercano di vedere il lato positivo di un'economia che in questi ultimi anni, purtroppo, di positivo ha dato poco, con la crisi che conosciamo molto bene, con i problemi che conosciamo molto bene. Buonasera a Luigino Bruni. Buonasera. Il professor Luigino Bruni ha scritto il libro Le prime radici, la via italiana alla cooperazione e al mercato, edito da Margine. È un libro dedicato soprattutto a guardare ai temi, appunto, del modello cooperativo come elemento capace di mettere insieme le cose positive che ci possono essere nell'iniziativa individuale e nel sistema economico. E buonasera al dottor Emanuele Campirio. Buonasera. Il dottor Emanuele Campirio è dottore in economia politica, lavora come ricercatore alla New Economics Foundation di Londra e ha scritto il libro L'economia buona, dedicato soprattutto a guardare nel grande ambito dell'economia globale quelle cose che di positive ci possono essere sul fronte, appunto, dell'andamento dei sistemi economici. Io direi, cominciamo più dalla piccola economia, dall'economia delle imprese, dall'economia delle aziende, con il professor Luigi Bruni, che attualmente insegna alla LUMSA di Roma. Professor Bruni, perché parlare adesso delle cooperative, della cooperazione? Perché la cooperazione è un movimento che è fiorito nei tempi di crisi, nel senso che tutte le volte che l'Europa, soprattutto l'Europa, anche se non solo, ma l'Europa ha vissuto grandi crisi epocali, strutturali, come fine 800 con la rivoluzione industriale, dopo il fascismo, la ricostruzione, è fiorita la cooperazione. Perché? Perché durante le grandi crisi economiche si hanno pochi capitali finanziari, ma si ha molto capitale umano. Le persone hanno bisogno di lavorare e hanno dei bisogni. Quindi in questo tempo, dove c'è tanta disoccupazione e si sta un po' insinuando l'ideologia dei due terzi, cioè che avremo sempre un terzo di disoccupati da mantenere in qualche modo con assistenza, occorre rilanciare l'idea che la cooperazione è una grande risposta per creare lavoro, perché siamo poveri ma siamo tanti e quindi ci possiamo mettere insieme per inventarci lavori. Ma ovviamente oggi non è soltanto il lavoro nell'edilizia o nella campagna come lo è stato nel fine 800 e nel dopoguerra. Bisogna inventarsi cooperative nella cultura, nell'arte, nel turismo, nell'energia, nell'economia tipicamente del modello italiano, dove le nuove forme di cooperazione possono essere una grande risposta a questi tempi di crisi. Quindi una cooperazione sia all'interno del mercato di produzione e di consumo, sia all'interno dei servizi sociali, i servizi propri dello Stato, perché l'uno e l'altro, sia il mercato capitalistico in senso stretto, sia lo Stato, il welfare state, sono entrambi in crisi. Quindi la cooperazione può essere un elemento che aiuta ad affrontare, forse non a superare, ma ad affrontare meglio questa crisi, professor Bruni. Certamente, io sono convinto di questo, perché la cooperazione è un principio fondamentale della vita umana, cioè l'associarsi per risolvere problemi comuni, per inventarsi un lavoro che non c'è. Io, che anche insegno, vedo che oggi i giovani sono molto disorientati quando finiscono gli studi, perché hanno il terrore creato anche da noi adulti che il lavoro non esiste, quindi cercano lavoro nei modi più strani. In realtà dobbiamo entrare nell'ottica che il lavoro va creato, va inventato. E la cooperazione rimane una grandissima risposta a questo tipo di esigenze. Ecco, in cui l'Italia, peraltro, professor Bruni, ha delle grandissime tradizioni, le ricorda nel suo libro come in fondo proprio la cooperazione è il modello della società in cui c'è una cooperazione, appunto, tra le persone, nasca da lontano, nasca dal Medioevo. Sì, la mia tesi, che è un po' l'unico elemento innovativo del libro, è che la cooperazione in Italia è la fioritura di un modello economico civile di tipo comunitario, legato al piccolo, al locale, alle valli, che nel Medioevo ha tutta una stagione che si esprime nelle corporazioni, nelle arti e mestieri, nel monachesimo civile, eccetera, che poi fiorisce nell'Ottocento, ma è la nostra vocazione a un'economia di tipo inclusivo e di tipo comunitario. Non è tanto il 2% o l'8%, ma è la radice più vera di un modello economico, che quindi, se oggi vuol ripartire, non deve imitare gli Stati Uniti o imitare il Nord Europa, ma deve ritrovare le sue prime radici di un modello che ha saputo mettere a reddito cultura, arte, storia, valori, che ha saputo creare valore dai valori. Ecco, ricreare un modello di cultura economica, ricreare un modello di interpretazione della realtà. Ecco, il primo capitolo del libro L'economia buona di Emanuele Campiglio si intitola proprio Rimettersi in pista. E anche questa sfida che lei cerca di affrontare, dottor Campiglio, con questo libro dedicato all'economia buona, cercare di vedere in modo nuovo anche la realtà economica? Beh sì, senz'altro, è anche la visione diciamo di un ricercatore ancora giovane come sono io, che sta cercando di orientarsi in questo grande campo che è quello della disciplina economica, che è un campo che si può dire fortemente in crisi al momento. Gli economisti, in particolare i macroeconomisti, sono stati i grandi colpevoli, almeno secondo l'opinione pubblica, a seguito della crisi, perché non sono stati in grado, non dico di prevedere, perché nessuno ha la sfera magica, ma almeno di avere un sentore di quello che stava per accadere. E, la disciplina in generale è in una fase di grande rinnovamento. Da una parte ci sono molti ricercatori che si stanno occupando appunto del lato finanziario, monetario e bancario della questione. La moneta e il debito, il credito e le banche sono stati per decenni i grandi assenti all'interno della teoria economica, più o meno colpevolmente, insomma. Ma quello che si sta facendo appunto è cercare di creare un nuovo assetto, una nuova, insomma, partendo dal passato, ma creare una nuova teoria economica che includa questi elementi. La seconda grande questione è ovviamente quella ambientale, legata alle risorse. In questo caso essenzialmente i due grandi temi sono quelli dell'energia e del cambiamento climatico. Ecco, lei nel suo libro dedica uno spazio proprio al fatto di passare da una visione globale al fatto di guardare poi al territorio. Uno dei capitoli è la rivoluzione si fa sul territorio, quindi alla riscoperta del locale, in fondo, delle piccole relazioni che può anche superare questo momento di crisi economica. Beh sì, certo, perché il discorso che facevo io riguarda ovviamente la ricerca economica, ma poi tutti quanti, dai piccoli, diciamo, dalle piccole comunità, dai singoli individui fino alle grandi comunità nazionali e regionali, hanno bisogno di trovare delle nuove risposte economico e sociali alla crisi. E appunto in questo libro faccio alcuni esempi su questa scala che va dal micro al macro, e diciamo trovo che il mezzo di questa scala, quindi il contesto locale, territoriale, possa combinare i due approcci micro e macro in maniera fruttifera, complementandosi a vicenda e fornendo alle singole comunità territoriali degli strumenti per rispondere alla crisi. Si fa in molti modi, ad esempio la cooperazione, intesa in senso lato, come accennava il professor Bruni, è uno degli strumenti principali, quindi riscoprire la componente cooperativa, collaborativa del sistema economico per rispondere insieme alla crisi. Ecco, rispondere insieme alla crisi anche ricreando uno scenario di fiducia. Professor Bruni, questa fiducia è in fondo quello che manca in questa fase, e anche nuovi modelli forse economici possono contribuire a ridare fiducia alle persone innanzitutto. Professor Bruni. Certo, il crollo della fiducia, la crisi che stiamo vivendo è una sorta di tragedia dei beni comuni, del bene comune fiducia, cioè si è spezzato, si è distrutto in qualche modo un tipo di fiducia che ha consentito una crescita forse troppo grande negli ultimi decenni. Quindi va ricostruita una fiducia di sistema generalizzata che consenta di fare grandi investimenti, di usare il denaro in modo rischioso per cose buone e non per speculazioni finanziarie. Tutto questo si chiama fiducia di sistema. Certo, partire dal basso è fondamentale, ma non basta. Oggi occorre anche una buona politica. Io credo che se noi in Italia e in Europa non rilanciamo una stagione di politica buona per la gente, per le buone attività economiche, come ricordava ora il dottor Campiglio, credo che da sola l'economia non ce la fa. Mai come in questi tempi è evidente che gli economisti sono dei renudi, cioè che l'economista che non trova, o l'economia che non trova un dialogo, un'alleanza, un patto con la sfera politica può far poco, perché siccome è da ricostruire un tessuto civile, da ricostruire un'alleanza su cui può reggere un contratto, un patto su cui si fonda anche il contratto, l'economia da sola non ce la fa. Ecco, bisogno di grande politica. Vorrei una battuta conclusiva dal professor Emanuele Campiglio. Lei da giovane ricercatore, adesso è a Londra appunto, un po' di fiducia comunque la vede, e vede la possibilità di ricostruire all'interno della società una fiducia in quello che è il nostro domani? Senza dubbio, uno dei motivi che mi ha spinto a scrivere questo libro è proprio quello di cercare di dare un panorama di tutti questi piccoli e grandi elementi di fiducia che spesso non sono conosciuti dal pubblico, ma che se fossero conosciuti appunto potrebbero dare una forte mano a risollevarci, senz'altro. Grazie mille, ricordo i libri di cui abbiamo parlato questa sera, ringraziando il dottor Emanuele Campiglio e il professor Luigino Bruni, sono appunto di Emanuele Campiglio, L'economia buona, edito da Bruno Mondadori per 176 pagine e 14 euro, e del professor Luigino Bruni, Le prime radici, la via italiana alla cooperazione e al mercato, edito da Il Margine, sono 240 pagine per 16 euro. Grazie al professor Bruni, grazie a Emanuele Campiglio, grazie a Pietro Bascopè in regia e Luca Cremonese in redazione, grazie a quanti ci hanno ascoltato. Vi ricordo che questo programma può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata.